202. Perine di riso. Riso grammi 100, latte mezzo litro, burro poco più di una noce, parmigiano un buon pizzico, uova numero 1. Cuocete il riso ben sodo nel latte, aggiungendovi il burro, e quando è cotto salatelo ed aspettate che abbia perduto il forte calore per scocciarvi l'uovo e mettervi il parmigiano. Tirate poi a cottura 2 fegatini di pollo e 2 animelle di agnello, facendone un umidino delicato, e dategli l'odore della noce moscata. Tagliatelo a pezzetti grossi meno di una nocciola e uniteci dei pezzetti di prosciutto, di tartufi o di funghi che gli donano molta grazia. Per dare a questo riso ripieno la forma di perette, fatevi fare un imbutino di latta, la cui bocca avrà un diametro di 4,5 cm. Ungetelo col burro liquido e spolverizzatelo di pangrattato fine. Poi riempitelo per metà di riso, poneteci 2 o 3 pezzetti dell'umido descritto e finite di riempirlo con altro riso. Formata la pera, per estrarla soffiate dal cannoncino, ripetendo l'operazione finché avrete roba. Già si intende che per friggerle queste perette bisogna dorarle con uova e pangrattato.